Bene, siamo al telefono con Giovanni Sparano, direttore artistico di Barezzi Festival. Ciao Giovanni, grazie mille della Ciao, disponibilità. buon pomeriggio. Allora, Barezzi Festival, dicevamo, diventa maggiorenne e si rinnova un po'. Quali sono le novità di questa 18ª edizione? Ma le novità importanti sono due. La prima è che abbiamo raddoppiato, se non triplicato, le anteprime. Andiamo per la prima volta al Teatro Principale di Piacenza con i Deus, poi al Teatro delle Celebrazioni di Bologna per la prima volta con l'Unica Data Italiana di Lancôme, e poi abbiamo già effettuato la prima anteprima al Teatro Valli, dove eravamo stati l'anno scorso con i Calexico, e c'è stato il sold out dei Tinari Yuen con l'Unica Data Italiana. Quindi la prima novità è che per festeggiare i nostri 18 anni abbiamo potenziato questo discorso di anteprime per valorizzare il discorso musicale sulla Via Emilia. E poi c'è un po' un ritorno alle origini con la valorizzazione dei giovani talenti, e questo progetto dedicato all'incontro tra la musica contemporanea e quella colta, in particolare quella di Giuseppe Verdi, dove i giovani band rifaranno delle arie d'opera di Traviata, per questo progetto che ci è stato finanziato dal Ministero, che si chiama Progetto Camelia, per i 200 anni della nascita di Alexandre Dumas Filho, che ha scritto La Dama delle Camelie, da cui si è ispirata Traviata. Poi avremo, come ogni anno, un bellissimo cartellone con Andrew Bird, José González, The Last Dinner Party, questa band pazzesca che sta scalando tutte le classifiche internazionali, oltre a Sun Ki Moon, Marta Delgrandi. Cioè, come ogni anno cerchiamo di produrre un calendario unico per questo evento. Allora, abbiamo detto che il festival si è aperto appunto il 17 settembre con il concerto dei Tinari Yuen. Com'è stata l'accoglienza, oltre a essere sold out, ma anche l'accoglienza del pubblico anche in questa città che non è propriamente quella del festival? Com'è andata? Ma devo dire che il rapporto con Fondazioni Teatri di Reggio e proprio Festival Aperto si sta consolidando su questo filone legato alle musiche dal mondo. Devo dire che loro hanno le idee molto chiare. Quando ho proposto Tinari Yuen c'è stata una ottima accoglienza. Infatti io sono rimasto molto colpito dal pubblico che è arrivato al Valli, che è un pubblico competente, attento e legato a questo tipo di musica. Quindi il sodalizio con la città di Reggio Emilia è prima di tutto un sodalizio artistico, perché abbiamo un partner che ha le idee chiare prima di tutto, su cosa è Barezzi e su quello che vuole proporre all'interno del suo festival aperto. Perfetto, dicevamo ci sono tante altre anteprime, puoi dirci un pochino le date con esattezza, almeno ce le segniamo tutte bene in Sì, agenda? allora la prossima data è il 19 ottobre, che è un sabato, a Bologna, al Teatro delle Celebrazioni, con l'Unica Data Italiana dei Lancôme, questa band che è stata la rivelazione del Primavera Sound, e devo dire sta destando molte, molte meraviglie da un punto di vista proprio musicale. Poi avremo al Teatro Verdi di Busseto questo progetto di Pier Cortese, con la presenza speciale di Niccolò Fabi, in questo progetto che si chiama Discoverland, il 8 novembre al Teatro Verdi di Busseto. Il giorno dopo a Piacenza avremo i Deus, anche per omaggiare i 220 anni del Teatro Municipale di Piacenza. Dopodiché si torna a Parma, perché diciamo che il fulcro centrale da cui è nato Barezzi Festival è Esatto. Parma, che sarà il 14-16 novembre. Eccoci, vuoi dire un pochino cosa troveremo in questi 3 giorni a Parma? Sì, sono 3 giorni molto intensi, perché ci sarà la fase finale al mattino con Barezzi Lab, legata ai giovani talenti e le scuole. Poi avremo i pranzi nelle osterie in collaborazione con gli artisti del conservatorio, progetti all'auditorium del Carmine al pomeriggio con Zela e Anna Bissavage, e poi la sera abbiamo giovedì The Last Dinner Party al Teatro Reggio, il 14, subito dopo a Borgo Santa Brigida, che è questo club proprio nel centro di Parma, sul Kill Moon. Poi il giorno dopo avremo all'Auditorium del Carmine Zela, poi l'Unica Data Italiana di José González al Teatro Reggio di Parma, e il Marto del Grandi, sempre a Borgo Santa Brigida. Poi avremo questa ultima giornata all'Auditorium Paganini, che è un ex zuccherificio ridisegnato da Renzo Piano, con una giornata molto intensa, alle 18 l'unica data italiana di Andrew Bird, poi avremo questo pianista minimalista canadese di origine coreana, Tony Han, subito dopo alle 20:30, e poi nella sala che è sotto due piani a questo auditorium, nella sala Ipogea, ci sarà questo party finale con Bassolino e Omar S. E poi chiudiamo fino alle 3. Una festona, insomma, per tutte le età. Esatto. E ora ti chiedo, magari per fare anche una piccola pausa, tra tutti gli artisti che abbiamo nominato c'è qualcuno che vorresti far ascoltare in particolare? E poi riprendiamo con le domande, ovviamente. Farei ascoltare questa band inglese che è veramente una novità assoluta, che si chiama The Last Dinner Party, e che ad oggi già sono quasi sold out, cioè hanno avuto una prevendita pazzesca da tutte le parti del mondo, e quindi magari farei ascoltare questo. Torniamo dopo i The Last Dinner Party a parlare di Barezzi Festival, che ricordiamo è iniziato il 17 settembre con un'anteprima, si svolgerà in particolar modo dal 14 al 16 novembre a Parma con delle anteprime. Il 19 ottobre, sottolineiamo, visto che si tratta del Teatro Celebrazioni di Bologna, la data dei Lancôme. Sì. Siamo sempre al telefono con Giovanni Sparano. Allora, la selezione musicale di Barezzi Festival è sempre particolare, cerca dei generi anche inesplorati, un po' di nicchia, però poi magari trova della roba. Per esempio, noi qualche anno fa siamo venuti a sentire i Fontaines D.C., che da lì in poi hanno avuto un'esplosione e ora riempiono gli stadi. Ecco, come avviene la selezione musicale? Cioè, avete dei talent scout che cercano in giro? Come succede? Ma allora, si parte da alcuni obiettivi, da piccoli macro obiettivi che noi ci poniamo da qua ai prossimi 5-6 anni, cerchiamo di raggiungerli proprio su quello che hai detto tu, su delle esclusive nazionali, di profili artistici molto internazionali. Da lì cerchiamo sempre di proporre qualcosa di nuovo. Tu hai citato i Fontaine D.C., ma ricordo che abbiamo anche proposto per la prima volta in Italia Benjamin Clementine e Michael Kiwanuka 2016-2017, proprio perché nel corso di tutti questi anni abbiamo creato un pubblico che ormai compra e si fida della proposta del Barezzi. Quindi poi diciamo le location non sono enormi e ci spingono ad avere un po' coraggio, no? Quindi da una parte ci sono dei profili iconici, come per esempio sono stati i Blonde Red Dead, i Jesus and Mary Chain. Poi c'è una parte di ricerca che comunque ha un profilo molto molto internazionale e in cui noi crediamo. Infatti adesso i Fontaine D.C. non li potremo più fare, ma allo stesso modo anche della Finger Party hanno già aumentato tantissimo il loro cachet. È un po' equilibrato tra questa doppio binario, e poi c'è anche un occhio d'attenzione anche al mercato emergente italiano. Quest'anno c'è Bassolino, che secondo noi ha un profilo molto interessante, come Marta del Grandi. Questo è un po' è un mix. Poi ci sono comunque dei promoter internazionali che hanno capito, diciamo, lo spirito del festival e ci fanno delle proposte sempre di prima scelta molto interessanti rispetto a, che ne so, a 7-8 anni fa, dove dovevamo sgomitare e pregare le persone, gli artisti, di venire qui a Parma. Insomma, Barezzi si è ritagliato il suo bello spazio, molto, anche molto importante ormai, perché è un festival molto sentito. E ti chiedo, per le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, dove trovare le informazioni, i biglietti, tutto quello che c'è da sapere su Barezzi Festival? Ecco, questa è un'altra novità importante. Abbiamo rivoluzionato un po', proprio per i 18 anni, tutta la parte della comunicazione. Abbiamo creato un'ottima pagina web, che è barezzifestival.it, che ha anche la parte inglese. Lì ci sono tutte le informazioni ed è molto intuitivo, con il link dei biglietti e tutti gli eventi collaterali che ci saranno in città. città durante la 3 giorni. Perfetto, quindi teniamo le orecchie e gli occhi aperti per Barezzi Festival. Giovanni, io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità, ti chiedo per salutarci un invito, un messaggio, se ancora fosse necessario dopo tutte le parole che abbiamo già speso per il festival, insomma, se hai un invito, un messaggio per il nostro pubblico. Ma allora, io al di là delle anteprime che sono cadenzate, che invito veramente a venire ad ascoltare in questi teatri fantastici della regione, direi di abbiamo compresso quest'anno rispetto agli altri anni molto il festival proprio per far vivere un'esperienza molto importante al nostro pubblico, che da giovedì a sabato può viversi anche la bellezza di questo centro storico, prendersi una bicicletta, andare nelle osterie durante il giorno, la sera. Poi Parma è anche una città nota per il buon cibo, quindi insomma, perché no? Esatto, infatti c'è anche la nostra proposta che si chiama Barezzi Snack a pranzo nelle osterie, dove abbiamo fatto una selezione di locali con gli artisti del conservatorio che suonano. Snack proprio per dare una mappa di posti giusti e evitare di andare nei soliti posti commerciali. Direi una selezione di cui ci possiamo fidare, vista anche la selezione musicale, e a questo punto ti chiedo una canzone per salutarci. Ma quella canzone di Andrew Bird, adesso non ricordo il nome, che ha questo pizzicato di violino, lui è tra i miei artisti internazionali preferiti. Grazie mille Giovanni, e insomma, appuntamento grazie a Barezzi Festival. Grazie mille.